picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Passato il giro di boa della 20ª puntata, la prima dal vivo in occasione della Festa dell'Ape a Piano Terra, ritorna a Picchi di Frequenza, anzitutto con una puntata un po' speciale. Avremo un'intervista a Fausto De Stefani, parleremo di malghe e di riabitanti della montagna, ma non soltanto, quindi restate con noi. La prima notizia di questa settimana è l'annuncio dell'uscita del nuovo numero monografico di Dislivelli, febbraio 2016. Il titolo è Montanari per forza, un contributo che Dislivelli ha voluto dedicare a quei nuovi abitanti delle Alpi e degli Appennini che, pur non avendo scelto di andare a vivere e lavorare nelle terre alte in base a forti motivazioni ideali o progettuali, sono almeno in parte migranti che si fanno montanari. Alcuni di loro ripartiranno per nuove mete lontane, altri torneranno forse nei loro paesi, ma qualcuno potrà trasformarsi da montanaro per forza a montanaro per scelta. Un in equilibrio tra contributi accademici e di operatori sul territorio. Il numero è scaricabile come sempre all'indirizzo dislivelli.eu. La seconda segnalazione è tratta da planetmountain.com, perché il Banff Mountain Film Festival approda per la sua quarta edizione con due tappe di più giorni a Milano e Torino, in particolare lunedì 22 e martedì 23 a Torino al Cinema Massimo, mentre mercoledì 24 e giovedì 25 febbraio al Cinema Odeon The Space in centro a Milano. Sci, mountain bike, kayak, arrampicata, alpinismo, trail running, due ore di proiezioni, sarà possibile assistere a una serie di emozionanti e coinvolgenti corto e mediometraggi. Insomma, il Banff è un appuntamento noto, ha anche un blog da cui periodicamente andiamo a trarre qualche contributo, quindi può essere un appuntamento da segnarvi. Le date successive saranno invece Bologna, Brescia, Bolzano, Varese, Lecco, eccetera, eccetera. Trovate tutto il programma completo online. La terza ed ultima segnalazione, dal titolo Contatto Verticale, è sempre da Planet Mountain, perché domenica 21 febbraio arriva la prima giornata italiana dell'arrampicata per non vedenti. Oltre 10 le palestre coinvolte, da Bologna a Bolzano, da Firenze a Milano, Reggio Emilia a Roma, Torino a Treviso e Verona, Genova, che però sarà spostato per motivi logistici al 13 marzo. È un articolo interessante, lo trovate appunto sempre su planetmountain.com, e racconta di come approcciare la passione per l'arrampicata anche per non vedenti. Andatelo a leggere. Abbiamo oggi infortunato durante una gita in collina Fausto De Stefani, alpinista di fama, ma soprattutto persona capace di guardare con un acume, uno sguardo critico, proprio le vicende dell'alpinismo mainstream, che non è assolutamente comune nel panorama. A 10 mesi, a 300 giorni circa dal sisma, dal terremoto che ha colpito il Nepal, con oltre 10.000 morti pare, e insomma con una situazione assolutamente gravissima sotto il profilo ad esempio dell'educazione, della capacità di rimettere in moto una solidarietà fattiva, Fausto, insieme alla fondazione di cui fa parte, insomma, sta dando un contributo non comune. Quindi abbiamo chiesto a lui un bilancio di questa esperienza e insomma un pochino quali sono le attività sul campo aperte in questo momento. Devo dire che io dopo il 25 aprile sono andato giù due volte e devo dire che avrei preferito non vedere quello che ho visto, purtroppo, perché anche a distanza di l'ultima volta, a distanza di 6 mesi, c'erano dei villaggi che erano stati completamente abbandonati, nessuno era ancora arrivato a portare degli aiuti, per cui è una tragedia sicuramente dimenticata e che non ne parlano più. E allora, quando la gente, i mass media non ne parlano più, è come se la questione fosse risolta, ma lì non è risolto assolutamente niente. Lì, se la comunità internazionale non si mette in testa di creare di creare qualcosa di importante, perché la pace la costruissi quotidianamente nel sensibilizzare, nel proporsi in modo positivo e non come è capitato a Haiti, come è capitato lì in Nepal. Lì se prima erano al tappeto, adesso sono completamente sottoterra. E in più adesso c'è il problema del freddo, perché è arrivato l'inverno, per cui nella valle dell'Antang, nella valle di Gurkha, con delle casette di lamiera, e io non li invidio sicuramente, perché c'è da impazzire. Infatti veramente, forse a 20 anni avevo la capacità di sopportare di più, adesso faccio fatica veramente. A volte sono arrivato al punto di non credere più nell'uomo, e se non credi più nell'uomo cosa fai? A cosa ti aggrappi? E in più, oltretutto, adesso c'è l'embargo da parte della Cina, per cui sono rimasti senza medicinali, sono rimasti senza gas, sono rimasti senza combustibile. Al mercato nero adesso un litro di benzina la paghi circa 3,70-4 euro. Un paese come messo in Nepal è ovvio che non vai da nessuna parte, insomma. E infatti sta facendo più vittime l'embargo rispetto al terremoto. Senti, volevo chiederti, noi ti abbiamo conosciuto dalle scalate in stile alpino degli 8000 all'impegno per i più piccoli a Castiglione delle Stiviere, con una fondazione che è impegnata dal Nepal a progetti in Brasile. Ecco, nei prossimi mesi quali saranno le tue energie, dove saranno spese? No, le energie sono sempre rivolte al Nepal e alla collina di Lorenzo. Ma perché? Perché alla fine sono anelli della stessa catena, non è che uno così vaga e quando non sa cosa fare cambia itinerario. I bambini, i giovani, l'essere presente e dare un significato, un senso alla vita, secondo me è quello. Cioè, quello che mettiamo dentro durante l'infanzia, durante la nostra adolescenza, rimane dentro fino all'ultimo respiro. E allora, se è valso per me, alla fine credo che valga la pena anche con i bambini. Se noi pensiamo che solo sulla collina di Lorenzo sono passati l'anno scorso 28.600 bambini e ragazzi, e qua è tutto gratuito, cioè nessuno paga un euro. Però, ripeto, poi non mi chiedo più se vale la pena farlo. Uno fa le cose che gli piacciono, no? Anche questa è una forma di egoismo come l'alpinismo, solo che nell'alpinismo non c'è cosa più inutile che salire montagne o arrampicarsi su pareti, mentre quello che trasmetti ai giovani, ai bambini, secondo me quello ha un significato importante. Fausto, io ringraziandoti per questo tuo contributo ti chiederei di concludere dandoci dei riferimenti, dove i progetti delle 5 scuole, insomma le altre attività che avete in questo momento aperte, dove si possono conoscere, sostenere e in qualche misura monitorare. Ma se si va sul sito della Fondazione Senza Frontiere oppure sulla Rarail Foundation, diciamo, in Nepal si vede tutto quello che si sta facendo anche quotidianamente, perché lì siamo intervenuti veramente in modo massiccio con più di 1800 quintali di riso, con lamiere, con bambù, però non basta, cioè non è che risolviamo i problemi, a questo qua ne siamo coscienti. È una guerra fra poveri, perché io quando vedo che andiamo a distribuire il riso e ci sono delle persone che sono disposte a fare un duello rusticano per avere una coperta in più, Io non sopporto più questa situazione, ecco perché i miei dubbi adesso a 64 anni sono cambiati. Però alla fine cosa facciamo? No, io non voglio essere pessimista e non voglio vedere tutto nero, io voglio vedere un mondo colorato come quello che vedono i bambini. E l'unica cosa che mi rimane da aggrapparmi. Tutto qua. Diventa un giovane malgaro, la Lombardia chiama, 32 gli alpeggi da adottare. Non l'abbiamo inserita nell'angolo delle news, ma volevo soffermarmi un attimo su un articolo pubblicato da Milano Repubblica. Salvate la montagna, appello della regione a vivere e lavorare in una delle strutture da prendere in gestione. Azienda regionale che gestisce i servizi per l'agricoltura, l'ERSAF, pubblica un bando. Il bando parla di 32 alpeggi all'interno del patrimonio forestale regionale, quindi parliamo di Regione Lombardia. In particolare, diciamo così, verranno premiati i giovani allevatori, i giovani imprenditori, i giovani malgari tra i 18 e i 30 anni, e quindi è uno stimolo a riprendere in mano tutta una serie di spazi che vanno a termine concessione a scadenza nei prossimi mesi, da Sondrio a Bergamo, dal Lecchese al Comasco, 32 spazi da prendere in gestione anzitutto dai riabitanti della montagna. Ora, io non so se qualcuno di voi aveva già letto questa notizia, se avete intenzione di provare a partecipare al bando, se conoscete qualcuno che lo farà, se avete esperienze pregresse di gestione, magari anche semplicemente come giovane aiutante in uno di questi spazi, o se ci state facendo un pensiero. Però voglio provare a lanciare così un appello a contattarci per raccontare un pochino che cosa ne pensate, se ne state parlando, se esiste un gruppo, un'associazione anche informale di amici, insomma, ci state facendo un pensiero? 32 alpeggi, giovani malgari in Lombardia, proviamo a parlarne qui a Picchi di Frequenza. Quello della proliferazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile è uno dei nodi su cui si gioca la partita della difesa e della valorizzazione dei territori montani. Abbiamo tutti gioco facile a dire che noi le nocività non le vogliamo, e quindi raccontiamo passo passo tante le battaglie che incrociamo lungo il percorso di Picchi, però d'altra parte tutti quanti consumiamo e quindi vanno anche fatte delle scelte. A partire dall'esperienza dei comitati che si oppongono ai progetti nocivi è possibile forse capire qualcosa di più su come l'attenzione dal basso nei confronti dei territori sia il primo strumento utile per capire quali siano invece delle politiche positive. Oggi Picchi di Frequenza si fa un balzo in direzione dell'Appennino tosco-emiliano, siamo negli Alti Appennini e andiamo a conoscere, insomma, uno dei comitati che animano la rete contro il proliferare di impianti eolici industriali. Siamo al telefono oggi con Paola Campori del Comitato in Difesa del Paesaggio di Camugnano. Volevo chiederti di raccontare un attimino la vostra esperienza, quando nasce e a quale progetto si opponeva? Dunque, nasce nel 2012. Si opponeva a un impianto eolico di grandi dimensioni che doveva essere costruito nella nostra zona, nel nostro comune di Camugnano, in provincia di Bologna, in una montagna qui sopra il nostro comune, presentato dall'Enel Green Power. Era un impianto progettato con delle torri eoliche di 100 metri di altezza, più il raggio delle eliche, che erano anche quelle di diametro 100 metri. E diciamo che erano per il nostro territorio molto devastanti, soprattutto per i lavori che venivano anche fatti, che comprendevano molti scavi, le piazzole, le strade di accesso, i cavidotti, oltre al disturbo che potevano creare anche per le case vicine. Perché poi consideriamo che questa qui è un'altezza media, insomma, sugli 800-900 metri e non ha neanche le caratteristiche di una ventosità che poteva essere utile per produrre l'energia che da progetto si sosteneva potesse derivare. Sì, dal sito leggo che il vostro è un territorio sull'Appennino bolognese, da una parte ricco di testimonianze anche archeologiche, però dall'altro già gravato da altre forme di impianti impattanti, dalla centrale idroelettrica di Sì, Siviana, alle dighe. esatto. Tra l'altro anche nei documenti presentati si faceva riferimento, la stessa faceva riferimento al fatto che qui ci sono già tanti impianti, tra l'altro ci sono due centrali idroelettriche grandi, più una più piccola, quindi tre centrali idroelettriche, quindi una produzione già potenzialmente di energia pulita molto elevata e anche sottoutilizzata rispetto al potenziale, no? Poi c'è un centro di ricerca dell'ENEA che anche questo occupa una vasta area. Si diceva praticamente che essendoci già tanti impianti che hanno già un po' degradato l'ambiente, quindi ne facevamo un altro che così, cioè, come dire, se è già degradato lo degradiamo ancora di più. È inaccettabile questa cosa, no? Leggo peraltro che la Quindi vostra non è un'esperienza isolata, ma sì. esiste un sito che si chiama Rete della Resistenza sui Crinali, diciamo una sorta di coordinamento dei comitati dell'Alto Appennino contro l'eolico industriale selvaggio. Quindi non è che un caso di una miriade che punteggiano in Sì, qualche ma la misura l'arco miriade ne appennino. sono stati già presentati tantissimi di progetti. Adesso se ne presentano altri, i cosiddetti mini, che poi non sono tanto mini, sono sempre delle pale di 30 metri oltre. Perché è più facile, diciamo, autorizzarli, essendo più piccoli, così ci sono meno persone che si attivano, diciamo, no? Sono più facili da fare autorizzare, da realizzare. Però, come dico, non c'erano le condizioni di ventosità e sono state anche dimostrate dai nostri consulenti, no? Perché abbiamo dovuto fare un grosso lavoro di consulenza sugli aspetti tecnici del progetto, sugli aspetti anche della producibilità energetica e in più tutta una serie di studi sulla flora e la fauna locale, sul fatto che queste eliche uccidono anche gli animali e le specie protette, come anche delle specie di aquila che sono molto rare, che sono qui in zona. Quindi tutta questa serie di studi ha fatto sì che poi anche dalla regione Emilia-Romagna abbiamo chiesto all'Enel di modificare il progetto per circa 90 punti salienti del progetto. Ecco, leggo dal sito sempre della rete che della trentina di progetti che dall'entroterra genovese a San Marino Sì. sono stati realizzati o sono in fase di progettazione, però ci sono anche una decina di progetti che sono stati rigettati o a cui i ricorsi, insomma, sono riusciti a mettere la parola quantomeno stop. Nel vostro caso, nel Camugnanese, cosa è successo, qual è l'epilogo della vicenda? Allora, dopo questa serie di richieste di modifiche, perché c'erano delle incongruenze, degli errori, il Green Power ha deciso per il ritiro, anche perché la soprintendenza ai beni ambientali, paesaggistici dell'Emilia Romagna aveva dato parere negativo per l'impatto enorme sul territorio, no? E quindi per il momento noi siamo qui, diciamo, ci attiveremo nel momento che verranno presentati altri progetti. Qui c'è anche un eolico di tre pale piccolo e so che ne hanno presentati altri due, di altre due pale sempre di quella dimensione. Diciamo che i problemi sono sempre quelli, perché lo Stato continua a dare incentivi sulla produzione di questa energia, no? Per impianti di eolici vari, per impianti piccoli, centralini idroelettriche lungo i fiumi e torrenti, che so che anche quelli hanno creato molti problemi, perché non c'è più il deflusso minimo vitale dei fiumi, continuando a captare l'acqua, no? Perché poi se ne fanno troppe anche di queste centraline non va bene. Dei problemi sono intervenuti anche per quelli che hanno queste grosse centrali biomasse e biogas, perché magari molti agricoltori, anziché produrre normalmente dell'agricoltura, producono del mais per bruciare nelle grosse centrali. E questo può succedere anche tagliando i boschi per produrre energia nelle centrali grosse biomasse. Quindi il problema nasce anche dal fatto che ci siano tutti questi incentivi statali a costruire queste centrali per produrre nuova energia elettrica. Perché poi se non c'è una programmazione del territorio, no? Quanta energia serve in un territorio? Bisogna fare dei piani energetici regionali, giusto? Cioè qui abbiamo già una serie di centrali che sono sottoutilizzate con energia pulita ugualmente, perché c'è bisogno di fare altre centrali? Anche il discorso dell'assorbimento della CO2, se noi togliamo alberature, anche prati, anche zone verdi, quindi togliamo anche l'effetto di assorbimento della CO2, quindi dove sono i benefici? Non li vediamo. Avevamo girato anche un video che è stato fatto da una società indipendente, questo video si chiama Green Lies, bugie verdi. Lo possiamo ritrovare in rete? Si trova in rete, ci sono anch'io che parlo del discorso eolico. Ci sono altri che parlano anche dei problemi sulla geotermia e anche sulle grandi estensioni di pannelli fotovoltaici fatti su suolo agricolo, che hanno fatto soprattutto al sud Italia e che si chiama Green Lies. C'è anche su YouTube, hanno messo delle ispezioni. Marco Albino Ferrari, fondatore e direttore della rivista Meridiani Montagne, ci porta oggi su una montagna molto particolare, Monte Cristo. Nel suo libro intitolato proprio Monte Cristo, dentro i segreti della natura selvaggia, edito dalla Terza, l'autore ricostruisce l'emozionante soggiorno che ha avuto la fortuna di vivere sull'isola nel 2014, ospite dei due custodi che durante tutto l'anno ne preservano l'integrità. L'isola, originatasi dal sollevamento di un plutone sottomarino, è interamente montuosa, con diverse sporgenze rocciose a picco sul mare e la sommità, denominata Monte della Fortezza, a 645 metri sul livello del mare. Ferrari descrive in maniera coinvolgente la sua esperienza fin dal percorso di avvicinamento su un mezzo della Guardia Costiera e ci permette di cogliere la purezza e la preziosità della riserva naturale integrale di Monte Cristo. Sull'isola, infatti, l'intervento dell'uomo è stato minimo, permettendo ad esempio la riproduzione e la discendenza fino a noi di una particolare specie di capre, portate sull'isola dalla comunità pioniera che raggiunse l'isola per prima, probabilmente al tempo degli antichi greci. Queste capre, rimaste isolate per millenni, sono tuttora presenti ed hanno conservato un patrimonio genetico unico, risultando degli endemismi, dei casi unici rispetto alle altre che sulla Terra hanno nel frattempo compiuto un percorso evolutivo attraverso innumerevoli ibridazioni. Un'altra storia straordinaria è quella delle berte minori, un uccello marino molto raro che sfrutta le scogliere dell'isola per nidificare. Nel corso del Novecento, per via di alcuni sbarchi, giunse sull'isola il ratto nero, un tipo di roditore che si riprodusse in quantità insostenibili per l'ecosistema. Il ratto si espanse a tal punto da mettere a rischio l'esistenza delle berte. Dopo diversi tentativi falliti, nel gennaio del 2012, ricostruisce l'autore, gli addetti alla tutela della biodiversità misero in atto una grandiosa operazione di estirpazione del ratto, considerato una specie invasiva aliena, in seguito alla quale il successo riproduttivo delle berte minori tornò ad aumentare del 95% in un solo anno. Il libro contiene moltissime altre curiosità ed informazioni sull'isola, ma in conclusione ci soffermiamo per un attimo sulla vita dei due custodi. Giorgio e Luciana, infatti, in precedenza rifugisti sulle Alpi, rimangono stabili per tutto l'anno su Monte Cristo. Marito e moglie vivono una condizione di perfetto isolamento, circondati dal vuoto. Abitano una vecchia casetta da loro stessi risanata e si nutrono dei prodotti dell'orto e del frutteto. Non mangiano abitualmente né carne né pesce né latticini ed ogni 4 mesi fanno la spesa che arriva con la motovedetta. È da quasi 10 anni che sono sull'isola, in servizio permanente, e la loro esistenza può apparire un esempio felice di eremitaggio contemporaneo, la scelta volontaria e consapevole di lasciare da parte l'inutile. Anche questa puntata, la numero 21 di Picchi di Frequenza, volge al termine. Io, come di consueto, vi invito a idee, critiche, segnalazioni, suggerimenti, anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, all'account @abuzzo3 sul social network azzurro o alla pagina Picchi di Frequenza su quello blu. Prima di lasciarci, di salutarci, gli auguri di pronta guarigione a Gigi Alippi, alpinista generoso, anche con noi a Peini in più di un'occasione con i suoi racconti dal Monte Denali, che doveva essere proprio questa domenica in compagnia dell'Ape di Brescia e non potrà venire a causa di qualche acciacco, e quindi nella speranza di riaverlo presto nelle nostre fila, noi ci risentiamo il prossimo venerdì alle ore 20 sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto con Picchi di Frequenza.